ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Sabato 8 luglio 1944. Cara Kitty, Brox è stato a Beverwijk ed è riuscito senza fatica a comprare fragole all'ingrosso. Sono arrivate qui molto impolverate, piene di sabbia, ma abbondanti. Ben 24 cassette per noi e l'ufficio. Di sera sono subito stati messi via i primi 6 vasi e 8 vasetti di marmellata. Il giorno dopo Miep voleva preparare la marmellata per quelli dell'ufficio. A mezzogiorno e mezzo, chiusa a chiave la porta di casa, siamo andati a prendere le cassettine. Peter, papà e Vandan vanno su e giù per le scale. Anne va a prendere acqua calda dallo scaldabagno. Margot prende il secchio, tutti gli uomini in coperta. Con una stranissima sensazione allo stomaco entro nella cucina dell'ufficio che era strapiena. Miep, Bep, Kleiman, Ian, papà, Peter, rifugiati e colonna di approvvigionamento, tutti insieme. E questo in pieno giorno, tende e finestre aperte, voci alte, porte sbattute, mi viene la tremarella per l'agitazione. Ma siamo ancora nascosti, mi chiedo. È la sensazione che si deve avere quando ci si può di nuovo mostrare al mondo. La casseruola era piena, torno su di corsa. Nella nostra cucina attorno al tavolo c'era il resto della famiglia che puliva o almeno faceva finta di pulire le fragole perché ne finivano più in bocca che nel secchio. Presto serviva un altro secchio. Peter torna nella cucina di sotto, 2 squilli di campanello. Il secchio resta lì. Peter viene su di corsa, chiude a chiave la porta libreria. Noi non riuscivamo a stare fermi dall'impazienza. Il rubinetto deve restare chiuso e le fragole mezze lavate aspettavano di fare il bagno, ma la regola dell'alloggio, qualcuno in casa, tutti i rubinetti chiusi perché l'acqua fa troppo baccano, viene rispettata. All'1 viene Ian, era il postino. Peter torna giù di corsa. Drin! Il campanello, dietro front. Vado ad ascoltare se non viene nessuno, prima dietro lo scaffale girevole, poi in cima alla scala. Alla fine Peter e io ci lasciamo penzolare sul passamano come 2 ladri e ascoltiamo i rumori che vengono da sotto. Nessuna voce estranea. Peter scende in punta di piedi, si ferma a metà e chiama «Bep!» e poi di nuovo «Bep!» Ma la confusione giù in cucina supera la voce di Peter. Allora scende di corsa in cucina. Io sto a guardare giù incuriosita. Torna subito su, Peter. C'è il contabile. Via di qua. È la voce di Kleiman. Peter torna su, sospirando. Lo scaffale viene chiuso. 1:30. Finalmente viene Kugler. Oh, santo cielo, non vedo che fragole. Fragole a colazione, Ian mangia fragole, Kleiman si gode le fragole, Miep cuoce le fragole, Bep pulisce fragole, sento odore di fragole. Voglio liberarmi di questi cosini rossi e vado sopra e che cosa vedo? Che lavano le fragole. Il resto delle fragole sarà messo in conserva di sera. Si aprono 2 barattoli. Papà ne fa subito una marmellata. La mattina dopo, 2 barattoli aperti. A pranzo, 4 barattoli aperti. Vandan non li aveva sterilizzati abbastanza. Ogni sera papà prepara marmellata. Mangiamo porridge con fragole, latticello con fragole, pane, burro e fragole, fragole come dolce, fragole e zucchero, fragole e sabbia. Per 2 giorni da tutte le parti c'erano fragole, fragole, fragole. Poi erano esaurite e sotto vetro, sigillate nei vasetti. «Senti, Anne», grida Margot, «abbiamo ricevuto piselli dalla signora Van Oven. 9 chili!» «È molto gentile da parte sua», rispondo io. «In effetti è gentile. Ma che lavoro! Uff! Sabato mattina dovrete tutti sgusciare i piselli», annuncia la mamma a tavola. In effetti, stamattina, dopo colazione, sul tavolo compare la più grande casseruola, piena di piselli fino all'orlo. se sgusciare è un lavoro noioso, devi provare a togliere le pellicine. Penso che gran parte della gente non sappia quanto è ricco di vitamine, buono e tenero il bacello di pisello dopo che è stata tolta la pellicina interna. I tre vantaggi sopracitati però sono insignificanti rispetto al fatto che la quantità commestibile è 3 volte più grande di quando si mangiano solo i piselli. Questo togliere le pellicine è un lavoretto di grande precisione che forse sarà anche adatto ai dentisti pedanti e ai meticolosi esperti di spezie, ma per una ragazzina impaziente come me è tremendo. Abbiamo cominciato alle 9:30, alle 10:30 mi siedo, alle 11 mi alzo, alle 11:30 mi siedo, mi ronzano le orecchie, staccare la punta, togliere la pellicina, tirare via il filo, buttare via la pellicina, eccetera, eccetera. Mi gira la testa, verde, verde, vermetti, filetti, guscio marcio, verde, verde, verde. Tanto per fare qualcosa blatero per tutta la mattina di tutte le sciocchezze che mi passano per la testa. Faccio ridere tutti e mi sento stupida da morire. A ogni filo che tiro sono più decisa che non voglio mai fare solo la massaia. A mezzogiorno ci mettiamo finalmente a colazione, ma dalla mezza all'1 e un quarto c'è di nuovo da togliere pellicine. Quando smetto mi pare di avere il mal di mare, un po' anche gli altri. Vado a dormire fino alle 4 e sono ancora tutta confusa per colpa di quei maledetti piselli. Tua Anne Marie Frank. Sabato 15 luglio 1944. Cara Kitty, dalla biblioteca abbiamo ricevuto un libro dal titolo provocatorio. Come trovate le ragazze moderne? Oggi vorrei parlare di questo argomento. La scrittrice critica nel modo più totale la gioventù di oggi, ma senza affermare che tutti i giovani sono dei poco di buono. Al contrario, trova invece che se i giovani lo volessero, potrebbero costruire un mondo grande, più bello e migliore, che la gioventù ha i mezzi, ma si occupa di cose superficiali senza degnare di uno sguardo quanto è veramente bello. In alcuni punti avevo la forte impressione che la scrittrice rivolgesse a me le sue critiche. Per questo adesso voglio spiegarti tutto bene e difendermi da questo attacco. C'è un aspetto del mio carattere che deve risultare evidente a tutti quelli che mi conoscono da un po', e cioè la conoscenza di me stessa. Qualsiasi cosa io faccia, posso guardarmi dal di fuori come se fossi un'estranea. Senza essere affatto prevenuta e senza avere un sacco di scuse, mi metto di fronte alla Anne di tutti i giorni e guardo che cosa fa bene e che cosa male. Questa autoconoscenza non mi abbandona mai, e a ogni parola che dico, appena l'ho pronunciata, so se avrebbe dovuto essere diversa o va bene così com'era. Mi condanno per talmente tante cose e capisco sempre meglio quanto era giusto quello che diceva papà. Ogni bambino deve educarsi da solo. I genitori possono solo dare consigli o indicazioni. La formazione definitiva del carattere ognuno ce l'ha nelle proprie mani. E bisogna aggiungere che ho una straordinaria vitalità e mi sento sempre così forte e in grado di sopportare, così libera e così giovane. La prima volta che l'ho notato ero contenta, perché non credo che mi piegherò presto sotto i colpi che ognuno deve sopportare. Ma di queste cose ho già parlato molto spesso. Volevo invece arrivare all'argomento «Mamma e papà non mi capiscono». Mio padre e mia madre mi hanno sempre viziata molto. Sono stati buoni con me, mi hanno protetta da quelli di sopra e hanno fatto tutto quello che dei genitori possono fare. Eppure da tanto tempo mi sento così terribilmente sola, esclusa, trascurata, incompresa. Papà ha tentato di tutto per ovviare a questa situazione, ma non ci è riuscito. Mi sono guarita da sola, rimproverandomi io stessa quello che sbagliavo. Com'è possibile che papà non mi sia mai stato d'aiuto nella mia lotta? Che sia stato fallito ogni suo tentativo di tendermi una mano amica? Papà ha usato i mezzi sbagliati. Mi ha sempre parlato come una bambina dall'infanzia difficile. Suona strano perché, a parte papà, nessuno mi ha dato sempre fiducia e, tranne lui, nessuno mi ha dato la sensazione di essere giudiziosa. Una cosa però l'ha trascurata, e cioè non ha pensato che la mia lotta per emergere era più importante di tutto il resto. Non volevo sentir parlare di problemi adolescenziali, altre ragazzine e di sono cose che passano da sole. Non volevo essere trattata da ragazzina come tutte le altre, ma come Anne in quanto tale. E Pim non lo capiva. Tra l'altro, non posso dare la mia fiducia a una persona che non mi dice anche tutto di sé. E visto che di Pim non so niente, con lui non potrò percorrere il sentiero della fiducia. Pim si tiene sempre sulla posizione del padre più vecchio, che ogni tanto ha anche avuto qualche inclinazione passeggera simile, ma che non può più vivere con me come un amico giovane, per quanto si dia da fare in questo senso. Per queste ragioni sono giunta alla conclusione di comunicare i miei pensieri soltanto al mio diario e, un'unica volta, a Margot. A papà ho nascosto tutto quello che riguardava me stessa, non l'ho mai messo al corrente dei miei ideali e l'ho allontanato da me in modo cosciente e voluto. Non ho potuto fare altro. Ho agito del tutto secondo i miei sentimenti, egoisticamente, ma come ho ritenuto giusto per la mia pace, perché perderei di nuovo completamente la pace e la fiducia in me stessa, che mi sono costruita con tanta fatica, se dovessi sopportare critiche nei confronti della mia opera completa solo a metà. E questo vale anche per Pim, benché possa suonare strano, non solo perché non l'ho reso partecipe della mia vita intima, ma anche perché spesso, con la mia scontrosità, lo allontano ancora più da me. Questo è un punto che mi fa pensare molto. Com'è possibile che Pim a volte mi faccia tanto arrabbiare, tanto che quasi non riesco più a studiare con lui, che le sue molte coccole mi sembrano poco sincere, che voglio avere pace e preferisco che mi lasci un po' da parte fino a quando non torno a trovarmi in una posizione più sicura rispetto a lui. Com'è difficile essere veramente forti e coraggiosi in tutti i sensi. Ma questa non è stata la mia delusione più grande, no. Molto più che su papà, medito su Peter. So benissimo di averlo conquistato io e non viceversa. Mi sono creata un'immagine ideale di lui. L'ho visto come un ragazzo calmo, sensibile, caro, che ha tanto bisogno di affetto e amicizia. Dovevo sfogarmi una volta con una persona in carne ed ossa. Volevo avere un amico che mi aiutasse a tornare in carreggiata. Sono riuscita nella difficile impresa. E piano piano me lo sono messo dalla mia parte. Quando infine sono riuscita a far sì che provasse sentimenti amichevoli nei miei confronti, ci sono state perfino intimità che adesso, a ben guardare, mi paiono fuori luogo. Parlavamo delle cose più segrete, invece di cose di cui avevo e ho tuttora pieno il cuore, finora non si è parlato. Non riesco ancora a capire bene, Peter. È superficialità o è timidezza quella che lo trattiene perfino davanti a me? Lasciando da parte questo, io ho commesso l'errore di escludere tutte le altre possibili forme di amicizia e di avvicinarlo con le intimità. È affamato di affetto, mi vuole ogni giorno più bene, questo lo noto chiaramente. I nostri incontri gli bastano. Su di me invece hanno solo l'effetto di far crescere il desiderio di provare. Però non tocchiamo mai gli argomenti che vorrei tanto portare alla luce del sole. Ho attratto verso di me Peter con più forza di quanto non sembri, e adesso lui si tiene stretto a me e per il momento non vedo un modo per staccarlo da me e far sì che si regga in piedi da solo. Infatti, quando mi sono resa conto che non poteva essermi amico come intendo io, ho tentato almeno di tirarlo fuori dalla sua meschinità e di farlo grande nella sua giovinezza. perché in fondo la gioventù è più solitaria della vecchiaia. Questo detto mi è rimasto da un qualche libro che ho letto e mi sembra vero. Allora magari è vero che gli adulti qui trovano più difficoltà dei giovani? No, sicuramente non è vero. La gente più anziana ha un'opinione su qualsiasi cosa e nella vita non si sente più incerta nelle proprie azioni. Noi giovani facciamo il doppio della fatica ad avere le nostre opinioni in un'epoca in cui ogni idealismo viene annientato e distrutto, in cui la gente si fa vedere dal suo lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Chi poi afferma ancora che gli adulti qui nell'alloggio segreto hanno molta più difficoltà? Sicuramente non si rende conto che i problemi si abbattono su di noi con violenza molto maggiore, problemi per cui forse siamo ancora davvero troppo giovani, ma che ci si presentano fino a quando, dopo un tempo lunghissimo, non pensiamo di aver trovato una soluzione, soluzione che di solito non regge rispetto alla realtà, che la annienta. Ecco che cos'è difficile in questa epoca. Gli ideali, i sogni e le belle aspettative non fanno neppure in tempo a nascere che già vengono colpiti e completamente devastati dalla realtà più crudele. È molto strano che io non abbia abbandonato tutti i miei sogni perché sembrano assurdi e irrealizzabili. Invece me li tengo stretti, nonostante tutto, perché credo tuttora all'intima bontà dell'uomo. Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza spietata finirà. E che nel mondo torneranno tranquillità e pace. Nel frattempo devo conservare alti i miei ideali, che forse nei tempi a venire si potranno ancora realizzare. Tua Anne Marie Frank. Venerdì 21 luglio 1944. Cara Kitty, adesso sono speranzosa, adesso finalmente va bene. Sì, davvero, va bene. Notizie fantastiche. È stato fatto un attentato a Hitler e nemmeno da comunisti ebrei o capitalisti inglesi, ma da un generale tedesco di pura stirpe germanica che è conte e per giunta ancora giovane. La divina provvidenza ha salvato la vita al Führer, che purtroppo se l'è cavata con un paio di graffietti e qualche scottatura. Alcuni ufficiali e generali che gli stavano vicini sono morti o feriti. Il principale attentatore è stato fucilato. È la prova migliore che ci sono molti ufficiali e generali che ne hanno piene le tasche della guerra e vorrebbero far sprofondare Hitler negli abissi più fondi per poi istituire una dittatura militare, fare la pace con gli alleati, armarsi di nuovo e dopo una ventina d'anni cominciare un'altra guerra. Forse la provvidenza ha volutamente esitato ancora un po' a toglierlo di mezzo, perché per gli alleati è molto più facile che i germanici puri e senza macchia si ammazzino fra loro. Così i russi e gli inglesi avranno meno da fare e potranno cominciare subito a ricostruire le proprie città. Ma non siamo ancora a questo punto e non c'è niente che io desideri meno che precorrere questi eventi gloriosi. Però ti renderei conto che quello che dico è la verità e nient'altro che la verità. È un'eccezione che una volta tanto non stia a fantasticare su ideali più alti. Hitler poi è stato così gentile da comunicare al suo popolo fedele e affezionato che a partire da oggi tutti i militari devono obbedire alla Gestapo e che tutti i soldati che sanno che un loro superiore ha partecipato a questo vile e meschino attentato possono sparargli. Bella storia verrà fuori. Il soldato Fritz ha male ai piedi da tanto camminare. Il suo capo, l'ufficiale, gli fa una lavata di testa. Fritz prende il fucile e grida: «Beccati questa, tu che volevi assassinare il Führer!» Una fucilata e quel borioso capo che osava sgridare Fritz passa a vita eterna. o a morte eterna. Finirà che i signori ufficiali se la faranno addosso per la paura quando incontreranno un soldato o dovranno dare un ordine perché i soldati hanno più potere di loro. Capisci qualcosina oppure ho di nuovo chiacchierato troppo? Non ci posso fare niente. Sono troppo allegra per essere logica, data la prospettiva che in ottobre potrà tornare a sedermi su un banco di scuola. Ops, non ti avevo appena detto che non voglio mettere il carro davanti ai buoi? Perdonami, non per niente mi chiamano la contraddizione ambulante. Tua Anne Marie Frank. Martedì 1 agosto 1944. Cara Kitty, una contraddizione ambulante è l'ultima frase della lettera precedente e la prima di questa odierna. Contraddizione. Sai spiegarmi esattamente che cos'è? Come tante parole, anche questa ha due significati. Contraddizione dal di fuori e dal di dentro. La prima vuol dire non accettare le opinioni degli altri. Volerla sapere più lunga, avere l'ultima parola, insomma, sono tutte caratteristiche negative per le quali sono ben nota. Per la seconda invece non sono famosa. È il mio segreto. Ti ho già raccontato altre volte che la mia anima è come se fosse divisa in due parti. La prima alberga la mia allegria sfrenata, le mie continue prese in giro, la gioia di vivere e soprattutto il fatto di vedere il lato positivo di tutte le cose. Con questo voglio dire che non ci trovo niente di male in un flirt, un bacio, un abbraccio, una battuta spinta. Questo lato di solito sta in agguato e caccia via l'altro che è molto più bello, puro e profondo. Non è vero che il lato buono di Anne non lo conosce nessuno e proprio per questo così pochi riescono a sopportarmi? Certo, sono un pagliaccio divertente per un pomeriggio, ma poi tutti ne hanno abbastanza di me per tutto un mese. Ecco, sono proprio come uno di quei film romantici è per le persone serie, semplicemente un diversivo, svago per una volta, qualcosa da dimenticare presto, non tanto brutto, ma ancora meno bello. Mi fa uno strano effetto doverti raccontare questo, ma perché non dovrei farlo, visto che so che è la verità? Il lato più leggero e superficiale di me supererà sempre quello più profondo, quindi prevarrà sempre. Non puoi nemmeno immaginare quante volte ho già provato a spingere via, a nascondere questa Anne, che è solo metà di tutto quello che si chiama Anne, ma non ci riesco, e so anche perché. Ho molta paura che tutti quelli che mi conoscono così come sono sempre scoprano che ho anche un altro lato più bello e più buono. Temo che mi prendano in giro, mi trovino ridicola, sentimentale e non mi prendano sul serio. Sono abituata a non essere presa sul serio, ma solo l'Anne superficiale ci è abituata e lo può sopportare. L'Anne più profonda invece è troppo debole. Le volte che riesco effettivamente a far venire fuori per un quarto d'ora l'Anne buona, lei si ritrae come una mimosa appena deve parlare, cede la parola all'Anne numero uno e prima che me ne renda conto sparisce. In compagnia l'Anne buona non si è mai fatta vedere, neppure una volta, mentre quando sono sola è lei a prevalere. So benissimo come vorrei essere e come sono di dentro, ma purtroppo sono così esclusivamente per me stessa. E questo forse, no, sicuramente, è il motivo per cui dico di avere una natura interiore allegra, mentre gli altri trovano che io sia allegra esteriormente. Dentro l'Anne pulita mi indica la via. Fuori non sono altro che una capretta scatenata che cerca di liberarsi. Come dicevo, avverto tutto in modo diverso da come lo esprimo. Per questo sono stata definita cacciatrice di uomini, civetta, sapientona, elettrice di romanzetti. L'Anne allegra, ride, risponde in modo insolente, scrolla le spalle con indifferenza, si comporta come se non gliene importasse niente. E invece l'Anne silenziosa reagisce in modo opposto. Per essere del tutto sincera voglio confessarti che mi dispiace, che faccio sforzi indicibili per cambiare, ma che mi trovo a combattere contro eserciti sempre più forti. Tra me sospiro: ma guarda che cosa ne è di te. Brutte opinioni, espressioni sarcastiche e costernate, persone che ti trovano antipatica, e questo solo perché non ascolti i buoni consigli della tua metà buona. Oh, ma io vorrei tanto ascoltarli, ma non riesco. Se sono silenziosa e seria, tutti pensano che sia uno scherzo e devo salvarmi con una battuta di spirito. Per poi non parlare dei miei familiari, che pensano che io stia male, mi fanno inghiottire pastiglie per il mal di testa e calmanti, mi toccano il collo e la fronte per sentire se non ho la febbre, si informano se sono andata di corpo e criticano il mio cattivo umore. Non sopporto quando si occupano tanto di me. Allora sì che divento prima sfacciata, poi triste e alla fine torno a rovesciare il cuore. Giro in fuori la parte brutta e in dentro la buona, e cerco un modo per diventare come vorrei tanto essere e come potrei essere se nel mondo non ci fosse nessun altro. Tua Anne-Marie Frank. Qui finisce il diario di Anne. Epilogo. Il 4 agosto 1944, tra le 10 e le 11 e mezzo di mattina, davanti all'edificio sul Prinzengracht numero 263, si fermò un'automobile. Il capo reparto delle SS, Karl Josef Silberbauer, in divisa, scese assieme a 3 collaboratori olandesi della Grüne Polizei, che erano in civile ma ben armati. È certo che i rifugiati siano stati traditi. La Grüne Polizei arrestò gli 8 rifugiati e i loro 2 protettori, Viktor Kugler e Johannes Kleimann, ma non Miep Gies ed Elisabeth Pep Voskül, e prese tutti i valori e i soldi rimasti. Dopo l'arresto, Kugler e Kleimann furono portati ancora lo stesso giorno nel carcere giudiziario sul Amstelveenweg e un mese dopo trasferiti nel carcere di Amsterdam sulla Veteringschanze. L'11 settembre 1944 furono condotti senza processo nel lager di transito di Amersfoort. Kleimann fu liberato il 18 settembre 1944 a causa della salute cagionevole. Morì ad Amsterdam nel 1959. Kugler riuscì a fuggire solo nel 1945, poco prima di essere mandato in Germania in un campo di lavoro. Nel 1955 emigrò in Canada e morì a Toronto nel 1989. Elisabeth Bepp Visk Voskül morì ad Amsterdam nel 1984. Miep Gies Santroschitz vive ad Amsterdam con suo marito. Dopo l'arresto, i rifugiati furono tenuti per 4 giorni nel carcere della Veteringschanze di Amsterdam, poi furono trasferiti a Westerbork, un campo di transito per ebrei nei Paesi Bassi. Con l'ultimo convoglio, che da qui partì per i campi di concentramento a est, furono deportati il 3 settembre 1944 e, dopo 3 giorni, arrivarono ad Auschwitz, in Polonia. Edith Frank morì il 6 gennaio 1945 di fame e stenti. Hermann van Pels, cioè Van Dan, secondo la Croce Rossa dei Paesi Bassi, morì in una camera a gas ad Auschwitz il giorno stesso in cui arrivò, il 6 settembre 1944. Secondo Otto Frank, invece, fu ucciso solo un paio di settimane più tardi, quindi in ottobre o novembre del 1944, poco prima che le camere a gas cessassero di essere usate. Auguste van Pels, passando da Auschwitz, Bergen-Belsen e Buchenwald, il 9 aprile 1945 arrivò a Theresienstadt. Da qui fu certamente deportata di nuovo altrove. Non si conosce la data del decesso. Margot e Anne, alla fine di ottobre, furono portate con un cosiddetto convoglio di evacuazione nel campo di concentramento di Bergen-Belsen sulla Lüneburger Heide. Come conseguenza delle condizioni igieniche catastrofiche, nell'inverno 44-45 scoppiò un'epidemia di tifo che mieté migliaia di prigionieri, tra cui Margot e alcuni giorni dopo di lei anche Anne. La data della morte deve essere tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. I corpi delle due ragazze probabilmente riposano nelle fosse comuni di Bergen-Belsen. Il 12 aprile 1945 il campo fu liberato dalle truppe inglesi. Peter Van Pels, cioè Van Dan, il 16 gennaio 1945 fu portato con una marcia di evacuazione da Auschwitz a Mauthausen, Austria, dove morì il 5 maggio 1945, appena 3 giorni prima della liberazione. Fritz Pfeffer, cioè Albert Husserl, morì il 20 dicembre 1944 nel campo di concentramento di Neuengamme, dove era finito dopo essere passato da Buchenwald e Sachsenhausen. Otto Frank fu l'unico degli 8 rifugiati a sopravvivere ai campi di concentramento. Dopo la liberazione di Auschwitz da parte delle truppe russe, in nave si recò a Marsiglia via Odessa. Il 3 giugno 1945 arrivò ad Amsterdam, dove rimase fino al 1953. Quindi si trasferì in Svizzera, a Basilea, dove abitavano sua sorella con la famiglia e suo fratello. Sposò Elfriede Geiringer, nata a Markowitz, viennese, come lui sopravvissuta ad Auschwitz, che aveva perso il marito e il figlio a Mauthausen. Fino alla morte, sopraggiunta il 19 agosto 1980, Otto Frank visse a Birsfelden, nei pressi di Basilea, dedicandosi al diario di sua figlia Anne e alla diffusione del messaggio in esso contenuto. Miriam Pressler. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.